Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con le riviste, con i magazine, con i periodici italiani e stranieri. Allora, questa mattina in realtà non vi voglio parlare di una delle testate che abitualmente sentite citate da questa trasmissione, da questi microfoni, ma invece vi voglio parlare di un prodotto nuovo che trovate oggi con il Sole 24 Ore, il domenicale. Ora, coloro che sono appassionati dell'insieme, certo, della cultura del Sole 24 Ore non hanno bisogno che io ricordi di cosa si tratta. Il domenicale è un inserto tra i più famosi, non solo in Italia, mi verrebbe da dire, appunto per la capacità di trattare i temi legati alla cultura. Da oggi il domenicale lo trovate in edicola, sempre con il Sole 24 Ore naturalmente, ma in un formato completamente nuovo, con una grafica completamente nuova, quindi dopo molti anni di onoratissimo servizio, un cambiamento importante che ci auguriamo possa piacere a tutti i lettori, possa incuriosire anche per le modalità che sono state trovate. Naturalmente l'accuratezza e l'autorevolezza del prodotto sono, se non intatte, addirittura aumentate. Trovate in copertina l'evento di copertina che poi viene celebrato all'interno del nostro inserto domenicale. Sono i 150 anni dell'Unità d'Italia, cominciamo ad avvicinarci, appunto ne parliamo con testimoni illustri, ma ci sono anche molte altre cose che non voglio stare a leggervi, perché credo che davvero sia uno dei prodotti che è gradevole leggere, specialmente appunto la domenica quando c'è un pochino più di tempo. Vi posso solo dire che abbiamo contributi di Umberto Eco, del presidente Carlo Azeglio Ciampi, abbiamo anche un incontro molto particolare con Houellebecq, che è uno scrittore francese molto famoso, probabilmente avete già letto anche qualcosa di lui, ma è tutto quanto, ripeto, lo trovate in edicola oggi con il Sole 24 Ore, un formato completamente nuovo, una grafica completamente nuova, contenuti e autorevolezza sempre intatti, sempre gli stessi, anzi, se possibile, anche qualcosina in più. Perdonerete l'enfasi, che non è davvero un'enfasi solo aziendale, trovo che questo nuovo formato del domenicale sia davvero molto bello, davvero molto interessante. Visto che abbiamo cominciato con questo respiro un po' ampio, vorrei dare addirittura un taglio internazionale alla puntata di questa mattina. Allora vado a pescare ad esempio dall'Economist, perché l'Economist ci dice che in Francia ad esempio sta andando molto forte la satira, i programmi satirici. Ci informa da Parigi che c'è un revival proprio della satira, dell'umorismo nei confronti dei potenti. Perché? Perché probabilmente non solo il fatto della recessione così porta magari a far sorridere, a prendere in giro, a dileggiare i potenti e così anche a scaricare delle tensioni, ma anche il clima politico, spiega l'Economist, che è meno è un po' più irriverente, è meno formale, perché il presidente Nicolas Sarkozy appunto ha un pochino svecchiato alcune modalità di comunicazione da parte del potere, e così ha anche però legittimato un approccio meno rispettoso, meno sussiegoso al potere stesso. L'Economist ci informa anche che in Francia stanno andando molto forti alcuni programmi radiofonici proprio di tipo satirico, e racconta un aneddoto legato a Dominique Strauss-Kahn, il capo del Fondo Monetario Internazionale. Come sapete, di lui si era parlato anche per una relazione con una collega. Bene, un imitatore alla radio ha fatto suonare appunto una sirena avvisando tutte le colleghe presenti negli studi che stava per arrivare, lui stava per recarsi in quegli studi, e quindi di abbandonare gli studi se non volevano essere, come dire, molestate dal suo arrivo. Questa l'imitazione che è stata fatta, e come dice appunto l'Economist c'è molta tolleranza, lo stesso Sarkozy è molto tollerante nei confronti dei programmi satirici, però poi ci informa nelle ultime tre righe lo stesso Economist che poco dopo questo imitatore che aveva fatto lo scherzo legato a Strauss-Kahn è stato però licenziato. Restiamo sull'Economist, però cambiamo nazione. Questa volta parliamo della Cina. Parliamo della Cina, ma per una questione che sorge più evidente in Cina, ma che in realtà riguarda tutto il mondo. Nessuno vuole più pagare per la musica, cioè sta oramai prendendo piede assolutamente un utilizzo gratuito della musica. Naturalmente verrebbe da ricordarlo illegale a tutti gli effetti, però la disponibilità di file musicali è tale per cui effettivamente chiunque di noi preferisce avere a disposizione gratis un brano anziché acquistarlo. Questo è un comportamento magari più diffuso tra i più giovani, ma che non è assolutamente legato a questioni generazionali, direi abbastanza trasversale. Allora, cosa succede a Pechino e perché l'Economist se ne occupa? Perché Pechino e la Cina in generale è diventata un po' il laboratorio avanzato di questa preoccupazione. Esiste un numero che muove la curiosità dell'articolista, ma anche poi dell'industria discografica tutta. Se si fa un rapporto percentuale tra il prodotto interno lordo del paese e quanto viene venduto, quanta musica viene venduta in quel paese, si trova che ai livelli più alti stanno gli Stati Uniti, che hanno un rapporto molto alto. Quindi diciamo, in relazione a quanti soldi sono a disposizione delle persone che compongono quello stato, si spende abbastanza per comprare musica, anche se, come tutti sappiamo, si spende molto meno di qualche decennio fa. Gli Stati Uniti sono al primo posto, hanno un punteggio, qui conta relativamente, ma comunque pari a 3 centesimi di PIL per l'acquisto di musica. Se arriviamo alla Cina, il valore è appena al di sopra dello zero. Quindi, facendo proprio il rapporto con il PIL e sapendo che in realtà ci sono aree ormai completamente sviluppate, fortemente sviluppate in Cina, e quindi anche con disponibilità di denaro, vediamo che l'acquisto però di musica non sembra procedere con la stessa velocità con cui invece vediamo procedere altre capacità produttive sempre in Cina. Da qui il ragionamento che parte proprio con una premessa poco benaugurante per chi si occupa di musica. Immaginate che per un momento che le peggiori previsioni sul business della musica siano corrette, che gli sforzi dei governi e delle industrie discografiche per combattere la pirateria vadano in fallimento, non abbiano nessun risultato. Ecco, avete più o meno immaginato lo scenario che si sta attuando, che sta prendendo piede in Cina. I consumatori cinesi non vogliono pagare un centesimo per la musica, spiega uno degli imprenditori che si occupano appunto di diffondere musica in Cina tramite internet, peraltro. E anche questo imprenditore, che si chiama Gary Chen, segnala che nonostante i prezzi bassissimi, le offerte addirittura di musica gratuita ma magari remunerata tramite la pubblicità, comunque i consumatori sono sempre assolutamente restii a pagare alcunché per avere dei brani musicali, piuttosto li utilizzano, come si dice, in streaming, cioè non potendoli scaricare ma soltanto ascoltandoli dal computer. E dice: ma allora se diventa praticamente impossibile vendere musica, è difficile anche fare denaro, ricavare del denaro anche solo dal mettere degli annunci commerciali legati al consumo di musica, che cosa possono fare coloro che cercano di lavorare in questo ambiente? E qui il signor Chen dice: ma noi stiamo cercando di puntare sulla selezione della musica, cioè il fatto di poter dare certe classifiche magari tutte insieme, o selezioni di brani fatti da musicisti famosi, musicisti conosciuti. Ecco, questo potrebbe essere qualcosa per cui le persone forse sono disposte a pagare. La speranza, dice, è che i fan paghino per delle compilation, come si dice, ben presentate, ben curate. Se neanche questo dovesse funzionare, allora bisogna solo puntare sui cosiddetti device, cioè sugli strumenti che suonano musica. Sono in effetti rimasti l'unico punto su cui si può guadagnare, appunto il fatto di poter allargare il consumo di musica non solo sui lettori, ma anche su strumenti come i cellulari o altri strumenti ancora che possono metterci a disposizione la musica che desideriamo. La conclusione dell'articolo dell'Economist è quindi: per vedere qual è il futuro del business nel mondo musicale, allora guardate a est, guardate alla Cina. Non è che poi, se ci consentite, sembri di vedere una prospettiva così rosea proprio guardando alla Cina. Magazine 24. Allora, restiamo all'estero per una questione che invece ho trovato sul Nouvel Observateur, una curiosità greca. Dovete sapere che la Chiesa Ortodossa greca ha chiesto al governo di non utilizzare assolutamente un certo numero per identificare le carte di identità informatiche che si stanno preparando e che dovrebbero debuttare l'anno prossimo. Il numero naturalmente è il diabolico 666 che conosciamo oramai, anche grazie alla pubblicità che gli hanno fatto i film horror, che i film basati appunto su questioni legate a presenze demoniache e così via. Bene, la Chiesa Ortodossa ha avvisato: utilizzate per favore un altro numero, non utilizzate il 666, perché è notoriamente il numero dell'Apocalisse, il numero legato appunto al demonio. E quindi effettivamente il governo greco sta pensando a un'alternativa, perché non sa bene come uscirne. Questa attribuzione viene fatta in modo informatico, quindi in modo assolutamente casuale dai computer, oppure è il riflesso di accordi internazionali. Non è così semplice girare attorno al problema. Vedremo poi come questo tipo di resistenza davvero inattesa a un progresso, cioè quello della carta d'identità informatica, andrà a finire. A proposito di progresso, una segnalazione da L'Espresso di questa settimana. Non so quale sia il vostro lavoro, non so quanta esperienza abbiate delle mail, quanta confidenza abbiate. Vi posso assicurare che è molto facile per chi riceve molte email, molta posta elettronica, scordarsi assolutamente delle email. Io questo lo dico anche pubblicamente, faccio ammenda di tutte le persone a cui non ho risposto in questi anni. Appunto, mi hanno scritto delle mail ma io non ho risposto. Non è che uno è maleducato. Il problema è che poi le email diventano veramente tante, e talvolta persino un gesto che dura pochi secondi, un minuto, due minuti, diventa difficile da fare. Allora che cosa si fa? Si accantona, si dice: beh, a questa mail risponderò più tardi, risponderò domani. E poi chiaramente è un domani che non arriva mai, finché la mail diventa troppo vecchia e quasi ci si vergogna in qualche modo anche di rispondere con un ritardo così imbarazzante. Bene, qualcuno ci ha pensato, ce lo dice Carola Frediani sull'Espresso. Fa una premessa analoga a quella che ho fatto io, dice: quante volte riceviamo una mail ma non abbiamo voglia o tempo di rispondere subito, e quindi rimandiamo la cosa un secondo momento e poi ce ne dimentichiamo perché arrivano decine di altri messaggi e così via. C'è un servizio che si chiama Nudge Mail, scritto N-U-D-G-E Mail, che proprio serve a reinviare, in pratica è un'altra casella postale che vi manda una mail. Poi non so quanto questo funzioni, però visto che il problema almeno personalmente è molto sentito, mi permetto di segnalarvelo. Cosa fate? Voi rispedite di fatto questa mail a cui non potete rispondere, quindi vi basta un solo gesto, a una casella e gli dite: rimandamela per favore domani, tra un giorno, tra due giorni, tra una settimana e così via. E questo servizio, questa casella, vi rispedisce la mail, e in questo modo ricevete nuovamente la mail a cui vi siete dimenticati o che rischiate di dimenticarvi. Per ora l'unica avvertenza è che è disponibile solo il servizio in inglese, quindi per dargli l'istruzione di quando volete essere avvisati per la risposta dovete utilizzare naturalmente dei termini in inglese. Veniamo a una cosa un po' più rassicurante, un po' meno angosciante delle mail che ci dimentichiamo, talvolta si tratta anche di cose importanti. Volevo tornare su Focus, abbiamo già parlato di Focus, come sapete Focus è un mensile, il numero di dicembre lo abbiamo presentato in alcuni dei suoi contenuti già nelle settimane precedenti. Ci ritorno perché Focus ha lanciato un servizio molto interessante il mese scorso sui motivetti che restano nel cervello e che poi ci tormentano per giornate intere. Li ha chiamati appunto vermi dell'orecchio, nel senso che continuano appunto a ronzarci nell'orecchio, e questa cosa ha appassionato anche molto i lettori. Tra l'altro Focus stesso invita i propri lettori a segnalare quali sono i tormentoni che girano appunto nelle loro teste e utilizzare il sito appunto focus.it per andare a riferire qual è il tormentone. Questa cosa però ha suscitato anche il contributo di un musicista, di un lettore di Focus musicista, che spiega che ci sono proprio dei motivetti che sono candidati a entrare nel cervello delle persone, sono i motivetti cosiddetti orecchiabili, diciamo noi. Cosa vuol dire orecchiabilità? L'orecchiabilità cambia in base alla cultura di riferimento, perché noi in Europa utilizziamo una scala musicale che si basa su 7 suoni, però in Cina ad esempio si privilegiano scale di 5 suoni. Poi ci sono strutture ritmiche che sono un'altra caratteristica decisiva. Noi in Europa siamo abituati ai 4 quarti, mentre nell'Europa orientale si utilizzano più spesso ritmi dispari. Allora la musica, spiega questo lettore che si chiama Andrea Ferroni, che più si presta a essere memorizzata, la musica che non si leva dalla testa, è quella composta da brani molto semplici che abbiano melodie basate su salti di tono o di semitono, oppure salti che si chiamano di terza o di quinta. In pratica un do mi do sol è già un abbinamento che, se viene ripetuto più volte nel motivo, ha molte probabilità di fissarsi nel cervello. Molti brani elementari, spiega, sono composti proprio in questo modo. Ci sono poi brani dedicati all'infanzia, brani per bambini che hanno estensioni anche minori, e questo è il motivo per cui spesso sono proprio le musiche per bambini che sono quelle che più difficilmente si levano dalla testa. Infatti abbiamo la caratteristica di ricordarle anche decenni e decenni dopo che le abbiamo ascoltate, perché appunto la loro costruzione è estremamente elementare, basata su queste caratteristiche di ritmo e di intervalli tra le note che ce le rendono assolutamente memorizzabili. Allora, concludiamo questa puntata di Magazine 24 con una citazione dal Nouvel Observateur, ancora dal Nouvel Observateur. Si tratta della produzione di vino nel mondo. Perché ve lo dico? Perché siamo primi, quindi fa sempre piacere cominciare la giornata con qualcosa di cui possiamo menare vanto. Possiamo dire di essere i primi non produttori mondiali, perché quelli sono i francesi, e il Nouvel Observateur naturalmente ce lo segnala: 44,75 milioni di ettolitri prodotti, però al secondo posto siamo noi a poca distanza, 42,5 milioni di ettolitri. Però siamo i primi nelle esportazioni di vino. Italia e Spagna infatti sono davanti alla Francia proprio nella capacità di esportazione. Questo annuncio però si collega a una notizia non così buona, perché si sta un po' riducendo la produzione di vino a livello mondiale, anche per effetto della crisi e anche per effetto delle politiche agricole, specialmente in area comunitaria. I maggiori paesi produttori sono infatti tutti nell'Unione Europea. Gli Stati Uniti, per darvi un'idea, producono meno di 20 milioni di ettolitri, e quindi sono molto molto distanti dai valori che ci sono in Francia, in Italia e nella stessa Spagna, che sta a 35 milioni di ettolitri. E con questa ultima indicazione, diciamo in onore di Bacco e quindi anche per augurare una buona giornata, una buona domenica a tutti, concludiamo la nostra puntata di Magazine 24. Grazie ad Anita Panizza che mi ha aiutato a prepararla, grazie a Roberto Scaltritti che questa mattina era con me in regia. Magazine 24 ritorna settimana prossima.